Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:11 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, come vi hanno anticipato i nostri GR24, è in realtà, non dico saltata perché si è tenuta, però rinviata domani la parte più importante della conferenza Stato-Regioni sul tema scuola. Non c'è accordo, ci sono state anche molte polemiche da parte delle regioni stesse, perché si sostengono che le linee guida del Ministero fossero inapplicabili. Lo ha detto anche il Presidente dell'Emilia Romagna, ma anche della Conferenza delle Regioni, quindi Stefano Bonaccini, ha detto noi pretendiamo di trovare un accordo assieme ai comuni e alle province, ma le linee guida che erano state presentate per noi non erano ricevibili, abbiamo fatto delle controproposte e le regioni chiedono appunto l'avvio delle scuole in presenza. E Bonaccini ha detto col governo occorre che troviamo un accordo o stanzia altri 2 miliardi di euro per le regioni, oppure, questo però riguarda complessivamente il tema dei finanziamenti delle regioni, o stanzia altri 2 miliardi oppure ci vi sarà lo stop alle relazioni. E vabbè, poi avremo modo anche di commentare questo, non aggiungo altro adesso, anche perché sapete che sulla riapertura della scuola, o meglio sulle modalità con cui si è analizzata la riapertura delle scuole, a mio avviso l'Italia, o meglio il governo italiano, non sta facendo una bella figura, anzi ci sono state oggi tra l'altro dei sit-in in 60 città italiane proprio per chiedere di sapere come e quando riaprirà la scuola, possibilmente in presenza. È una mobilitazione che si inizia alle 18, tra tre quarti d'ora, a Roma, ma riguarda tantissime altre città di questo paese, e ne parleremo perché, ripeto, non si capisce su cosa abbiano lavorato fino adesso, se le indicazioni date alle regioni sono state bocciate in maniera così, così netta. Poi mi interessa poco che il governo blindi o non blindi l'azzolina, mi interessa che il governo dia le indicazioni poi permette alle regioni. Tra l'altro si è perso moltissimo tempo, molti prestiti fanno notare, li abbiamo ascoltati ieri, che a questo punto anche gli interventi infrastrutturali, per cui magari per sistemare le aule e quant'altro, rischiano di non avere tempo sufficiente, perché insomma agosto è un mese in cui l'attività in parte si ferma, e se bisognava arrivare a indicazioni così generiche e approssimative, si potevano fare anche a maggio queste indicazioni, quando Francia e Spagna hanno iniziato a dare le loro indicazioni molto più operative su come riaprire le scuole. Non serviva aspettare fine giugno per avere indicazioni così generiche. Comunque parleremo anche della cassa integrazione, perché anche qui il governo ha ribadito piena fiducia a Tridico dopo che oggi vi erano state indiscrezioni sui giornali di una, diciamo, tensione con il Presidente del Consiglio, però vorremmo fare il punto sull'andamento della cassa integrazione, perché è vero che il Palazzo Chigi ha confermato piena fiducia al presidente dell'INPS e ha riconosciuto, devo dire una nota molto formale, il grande sforzo fatto, però ha continuato il meccanismo della CIG che abbiamo ereditato, troppo articolato e farraginoso. E, troppi italiani però sono ancora in attesa, e faccio notare che 4 milioni e 600 mila imprese hanno anticipato la cassa integrazione. Ho capito benissimo che poi andranno a in credito per i contributi all'INPS, ma intanto l'hai anticipata, inutile che ci giriamo attorno. Secondo Tridico sono ancora 150.000 le prestazioni, chi non ha ancora beneficiato della cassa integrazione, 130.000 sono le domande di giugno, e anche su questo tema ballano molte cifre, però insomma faremo ascoltare Tridico e analizzeremo anche la situazione, così come faremo il punto, che facciamo ciclicamente, anche sulla parte dei prestiti alle imprese, soprattutto la parte, diciamo, che riguarda il fondo di garanzia, quindi i prestiti che hanno fino a 25.000 euro, ossia fino al 25% del fatturato, passati poi a 30.000 euro e con scadenza che adesso può essere chiesta a 10 anni, non più a 6 anni. Si segnala anche qui qualche inceppo in chi ha voluto o ha preferito riformulare l'intera domanda, perché le banche sono rimaste forse un po' spiazzate anche da questa modifica che ha portato di fatto a dover reimpostare tutta la pratica in chi aveva già ottenuto l'erogazione del prestito, non in chi la pratica la stava avanzando oppure si stava ancora processando da parte della banca. Comunque 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Cassa integrazione, scuola e prestiti alle imprese sono tre classici diciamo di queste, ahimè, di queste settimane. Le borse oggi come vanno? Sono leggermente positive, meglio a Parigi più 1,35, Francoforte più 1,15, Milano più 0,70, Londra più 0,30, Dow Jones invariato, recupera qualche titolo, Nexi più 2,70, UBI più 2,5 come di Assori, nel banco BPM il 2% rialzo di Exor, l'1,80 di Chrysler e di Azimut, l'1,70 di Prismian, l'1,5 di Banca Generali e Inuit, l'1,40 di Intesa San Paolo e Fineco Bank, negativa Campari del 3,30, CNH dell'1,30, Era dell'1,20, Leonardo dell'1%. Dicevo 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Sì, qualcuno mi fa notare, in tema di scuola ci sono anche i trasporti, come facciamo con i pullman pieni di ragazzi? Beh, insomma, i trasporti non sono bloccati in questo momento, facciamo come si fa con gli altri lavoratori che vanno regolarmente al lavoro in questo periodo, utilizzando, quando non hanno alternative o quando insomma è l'unica alternativa, i mezzi pubblici. Non è che adesso il tema dei trasporti sui mezzi pubblici si applichi solo quando devono essere presi dai ragazzi. Poi, ripeto, tra le proposte che abbiamo visto c'è anche quella del differenziare gli orari di ingresso in modo da non avere, diciamo, un flusso unico nello stesso orario, però vorremmo capire come, con che autonomia. Non è un dettaglio anche per i genitori di questi ragazzi, soprattutto quando sono piccoli, sapere se l'orario sarà quello del classico delle 8:10, 8:15, 8:05, oppure verrà scaglionato, alcuni alle 8, altri alle 9, altri alle 10, cioè. Intanto cerchiamo di capire quali siano le linee guida. Basta che tutta questa attesa non partorisca, come è sembrato, un topolino oppure delle indicazioni così generiche che potevamo scriverle anche un mese fa. Dai. Dunque, partiamo come sempre delle notizie di carattere internazionale. Continua la difficoltà delle compagnie aeree. Oggi la compagnia australiana Qantas ha annunciato la soppressione di 6.000 posti di lavoro e il mantenimento a terra di un centinaio di velivoli al fine di risparmiare 9 miliardi di euro. Lufthansa nel frattempo e il sindacato tedesco hanno raggiunto un accordo per risparmiare 500 milioni di euro e nel frattempo c'è l'assemblea degli azionisti, dove il presidente, ne abbiamo parlato con Alessandro Platerotti della vicenda Lufthansa, c'è una parte dell'azionariato che è contrario all'ingresso nel CDA da parte del governo tedesco, che però mette 9 miliardi in Lufthansa, e ha detto il presidente del consiglio di sorveglianza: non abbiamo più soldi, viviamo delle risorse messe da parte in passato senza il sostegno dello Stato tedesco, rischiamo l'insolvenza nei prossimi giorni. E ha chiesto appunto anche il numero uno Carsten Spohr di votare il pacchetto di aiuti del governo per salvare la Lufthansa. L'Unione Europea ha dato via libera a 6 miliardi per ricapitalizzare Lufthansa, mentre Ryanair ha accusato Lufthansa di fare cartello in Italia, ha fatto ricorso alla Commissione Europea. Sempre in Germania lo scandalo Wirecard. A questo punto l'ex colosso che ha beccato un buco di bilancio da quasi 2 miliardi e che ha portato la classe politica tedesca e il governo ad ammettere che i meccanismi di controllo, cioè della Consob tedesca, ma non solo, non hanno funzionato, è pronta per avviare la procedura per insolvenza. Da questo punto di vista ci sono pochi dubbi quando scopri che 2 miliardi erano fittizi dentro il tuo bilancio. Ancora, per quello che riguarda le indicazioni arrivate alle banche, il Fondo Monetario ha fatto un invito alle banche a usare il capitale e la liquidità per assorbire le eventuali perdite e finanziare l'economia, e quindi dovrebbero, chiede il Fondo Monetario, sospendere le banche la distribuzione di dividendi, così come i piani di buyback, cioè di ricomprarsi le azioni presenti sul mercato. Tensione invece oggi sullo spread italiano, che è tornato a salire a 180 punti base, il tasso del BTP a 10 anni è all'1,32%, però su invece sul collocamento di oggi di 3 miliardi e mezzo di CTZ i tassi sono risultati in calo. Il ministro Gualtieri oggi in un question time al Senato, dove ha battibeccato con il responsabile economico della Lega Alberto Bagnai, ha detto Gualtieri a Bagnai: c'è una scarsa conoscenza dei meccanismi e delle tecniche di emissione del debito. Il governo ha emesso fino ad ora 97 miliardi da inizio gennaio al 15 giugno, 92,7 miliardi scusatemi, di obbligazioni in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quindi siamo andati a raccogliere sul mercato prestiti per 92 miliardi in più rispetto all'anno scorso, tant'è che 77 miliardi sono titoli a medio e lungo termine, di 16 miliardi di bot. E ha detto sostanzialmente è un impegno senza precedenti, con uno sforzo in bilancio maggiore di tutti in Europa e secondo solo alla Germania. Dunque, è il decreto semplificazioni. Dunque, o il decreto rilancio, perché sappiamo che il governo va a votare inizio luglio il decreto rilancio e ha posto la fiducia, quello che ho chiamato sostanzialmente ristoro. Ma poi c'è il tema del decreto del disegno di legge semplificazioni. Allora, dovrebbe essere un decreto di una cinquantina di articoli tra semplificazioni edilizie e per gli appalti, con l'obiettivo di velocizzare tempi, procedure burocratiche e spinta alla digitalizzazione. Il DL semplificazione, detto il Premier Conte, è essenziale per la ripartenza. Oggi c'è un Consiglio dei Ministri, anzi dovrebbe essere iniziato alle 16, e dopo il CDM i capi delle delegazioni incontravano il Presidente del Consiglio. Vedremo se uscirà qualcosa anche su questo. Nel frattempo arrivano i dati di carattere congiunturale, in questo caso è Federmeccanica a presentarli. Aprì i volumi di produzione metalmeccanica nel mese di aprile, sono più che dimezzati rispetto a febbraio, meno 54%, e tra l'altro dicono che insomma è peggio di qualunque altra fase recessiva a cui si vada a confrontare, sia 2008-2009 che 2011. Invece soddisfatte le parti sociali, Federmeccanica, Sistali, i sindacati, per la ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici. Allora sentiamo il segretario confederale nazionale della CGIL al microfono della nostra Anna Marino, Emilio Miceli. Tavolo c'è intanto la possibilità che non si fermi un dialogo contrattuale che era cominciato. Noi il contratto lo vogliamo fare, i metalmeccanici unitariamente hanno posto con grande forza la necessità di aprire il tavolo contrattuale, e al tempo stesso abbiamo l'esigenza che le grandi vertenze industriali che sono presso il MITE, ma non solo presso il MITE, possano arrivare a una conclusione. Guardi, il dato sconfortante è che già prima della crisi non si riusciva a chiudere una vertenza che fosse una. Oggi speriamo che la possibilità di poter avere un nuovo rinnovato, una rinnovata funzione dello Stato, del sistema pubblico, degli investimenti, dei finanziamenti pubblici, così come disegnati nell'architettura legislativa di questi mesi di emergenza, possa in qualche modo portare a una chiusura delle questioni più spinose. Penso a tutta la vicenda dell'acciaio: non c'è uno stabilimento, una filiera, una produzione di acciaio nel nostro paese che non sia in crisi e in cui non corriamo il rischio di una distruzione, da Terni a Piombino alla vicenda più nota di Taranto e di ArcelorMittal. Allora, andiamo sulla, visto che si parlava di parti sociali, rinnovo del contratto, invece sul tema della cassa integrazione. Questa mattina, ospite di Simone Spezia e Maria Latella, il segretario che è dimissionario della FIM CISL, Marco Bentivogli, ha detto: attenzione, si va verso uno degli autunni più terribili della nostra storia, la disperazione sociale sarà alle stelle, se si mette il divieto di licenziare vi saranno migliaia di imprese che portano i libri in tribunale. Qui c'è un problema, che il governo non ha idea di che cosa mangia il paese. Il pezzo che esporta di più l'Italia non è l'enogastronomia, è la meccanica strumentale. Se questo paese perde terreno sulla produzione di metalli e sulla loro trasformazione nel manifatturiero avanzato, questo paese va in default industriale. E questo, purtroppo, io non voglio fare il professore di nessuno, non voglio insegnare niente a nessuno, ma se al governo si continuano a spiegare che si danno soldi per le liquidità delle imprese e le imprese non hanno questa percezione, si dispiega che c'è i soldi della cassa integrazione e la cassa integrazione in molte più aziende, anche se sono pessimisti, in molte più aziende di quelle stimate non sono arrivati i soldi della cassa integrazione. E poi c'è un problema proprio di scelte. Il nostro PIL è fatto per buona quantità, ci sono sicuramente le costruzioni, ma c'è sicuramente l'automotive. L'automotive arriva circa al 7% da solo del PIL. È mai possibile che questo governo sull'automotive stanzi solo gli incentivi sui monopattini e le biciclette? Insomma, un po' poco monopattini e biciclette, lo dico perché attenzione, un conto è parlare di green, ma andate a vedere bene la filiera dell'automotive. Comunque, allora, mentre il Premier ribadisce, il Palazzo Chigi ribadisce la piena fiducia al presidente dell'Inps Tridico, dopo che appunto invece ieri lo aveva convocato e da quello che si è letto e saputo aveva espresso al presidente dell'Inps tutta l'insoddisfazione per i numeri sulla cassa integrazione, che vedono troppi italiani ancora in attesa, una situazione inaccettabile, e Conte avrebbe detto, secondo quello che riportano i giornali, adesso non è più possibile sbagliare sulla cassa integrazione. C'è un'ipotesi di prorogare la cassa integrazione, potrebbe essere nel decreto luglio, fino a fine anno, ma non generalizzata, solo per alcuni settori, quelli più colpiti dalla crisi. Da quello che abbiamo capito, turismo, abbigliamento, ristorazione e settore automotive, appunto. Il problema è la carenza di risorse. In questo momento ogni mese di cassa integrazione arriva a costare circa 5 miliardi di euro, ma in realtà ne abbiamo messi anche di più nel primo decreto era oltre 12 miliardi. E poi il governo sta pensando però anche, intanto, lo stato d'emergenza scade il prossimo 31 luglio. Starebbe pensando di prorogarlo fino a fine anno, ma prorogare anche il blocco dei licenziamenti e lo smart working della pubblica amministrazione. Il blocco licenziamenti scade il 17 agosto. Sì, io non ho capito perché lo smart working della pubblica amministrazione, sinceramente. Cioè, un conto è avere un lavoro, per carità, in sicurezza. Anche perché non solo nella pubblica amministrazione, vale anche per le grandi aziende, anzi soprattutto per le grandi aziende, qui prima o poi il tema dovremmo porcelo. Lo smart working, per carità, farà risparmiare anche qualche azienda, ma sta bloccando tutti i centri urbani di questo paese. Allora, ho capito che uno può avere un vantaggio, però vogliamo porci anche la domanda su cosa facciamo delle zone di uffici di Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino, Napoli e via così, dove ci sono i bar, i ristoranti in ginocchio e tutte le attività che ne conseguono, che vanno dal parcheggio a qualunque cosa, no? Dico, perché se no inserisci anche quelle categorie, cioè, adesso sembra quasi che lo smart working sia la soluzione a tutto. Era una soluzione importante nel momento di piena emergenza, basta che uno sia consapevole di quello che sta causando anche lo smart working. E poi sul pubblico, boh, non è che la pensi come Ichino, però vorrei capire veramente se serve se serve veramente nel pubblico impiego. Qualcuno mi segnala molti ritardi nella pubblica amministrazione per lo smart working, altri mi stanno scrivendo, certo, come avremmo fatto ad andare al lavoro con le scuole chiuse. Ho capito, infatti tutto si tiene purtroppo in economia, e da lì passa anche il tema della riapertura delle scuole. Io spero che almeno a fine agosto, inizio settembre, si torni in buona parte, fatto salvo notizie che non voglio neanche immaginare, a forme di lavoro più tradizionali. Sentiamo allora cerchiamo di capire che cosa non stia funzionando in questa cassa integrazione. Sentiamo Tridico di ieri dopo l'incontro col Presidente del Consiglio. Il Presidente ha voluto sapere tutto quello che è successo sulla cassa integrazione, un'analisi dettagliata su tutti i numeri, su tutte le articolazioni della cassa integrazione. Come sapete, ha diverse articolazioni: la cassa ordinaria, la cassa in deroga, il FIS, la deroga nazionale con le plurilocalizzate, i fondi bilaterali, insomma una molteplicità di casi, e ha voluto sapere diversi step di criticità che tra l'altro condividiamo tutti, perché la cassa integrazione, come sapete, è uno strumento molto complesso che ha diversi elementi di criticità che l'istituto ha affrontato e che sono state attenzionate proprio per la loro macchinosità in alcuni casi, no? Il processo dura tempo nella cassa integrazione. Noi come Presidente condividiamo queste criticità. Sul decreto di rilancio ci sono state fatte delle semplificazioni importanti, come sapete, sull'anticipo del 40% che parte appunto da adesso in poi. Le domande che stanno intervenendo sono esattamente queste. Io non devo più dire niente di Tridico, perché ho chiesto le dimissioni sue a suo tempo e anche del ministro Azzolina, quindi noto solo una cosa che accomuna Tridico e l'Azzolina: l'utilizzo dell'inglese stakeholder per l'Azzolina, lo step, gli step. Ma anche lo step si traduce in italiano in quanta cassa integrazione state pagando e perché non riuscite a pagarla. Dopodiché, allora, Federmeccanica, sentiamo Fabio Astori sull'ipotesi di incentivare, che è uscita anche un'altra ipotesi, di incentivare fiscalmente le aziende che rinunceranno alla cassa integrazione. Ha detto Astori, adesso il governo più di una volta ha proposto soluzioni fantastiche che poi sono rilevate inattuabili, bisogna capire esattamente i termini. Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT, Centro Studi sul Lavoro e Occupazione, fondato da Marco Biagi, buonasera. Buonasera a voi. Dopo il traffico, dopo il metro, ci devi aiutare a capire che cosa ancora non sta funzionando, al di là degli anticipi che hanno fatto le imprese, in buona parte. E poi magari mi dà anche un suo giudizio sullo smart working, se ha un senso dappertutto così. O se invece forse nel pubblico impiego, visto il ministro Dadone dire ma noi lo posticipiamo al 31 luglio, capito? Vorrei capire se non si sta magari esagerando anche nello smart working, che è lavoro, per carità, però insomma qualche piccola ricaduta nel tessuto economico della città ce l'ha. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Tu Dunque, moltissimi messaggi al 349-238-6666 sullo smart working, sul lavoro da casa. Mi segnalano molti ascoltatori che l'INPS sta facendo lavoro da casa, che lo fa anche l'Agenzia delle Entrate, che ci sono ritardi nel smaltimento delle pratiche. Sì, vabbè. Seghezzi, partiamo dalla cassa integrazione, poi arriviamo anche al cosiddetto smart working. Senta, lei ha capito bene se c'è una vischiosità, come dice il governo, dovuta a un meccanismo troppo complicato prima, o se qualcosa non ha funzionato così nella percezione, ma nella capacità di prepararsi alla mole di domande che sarebbero arrivate? Ad ora sono 5 milioni e 800 mila i pagamenti di cassa integrazione ordinaria già effettuati per 2 milioni e 900 mila lavoratori dipendenti che ne hanno fatto richiesta. Secondo Tridico mancano 150 mila lavoratori che non hanno ancora avuto l'assegno, 25 mila che aspettano i soldi della CIG da febbraio, immagino anche marzo, aprile, non mai scrivono molto di marzo e aprile, e poi altri 130.000 su quelli di giugno. Che cosa è che ha reso tutto più complicato, Seghezzi? Allora, se noi guardiamo ad oggi, uno potrebbe dire ne mancano solo 25.000, cosa che per me è comunque molto grave, perché 25.000 persone che non hanno mai ricevuto nulla, possiamo immaginare le loro condizioni, però per arrivare alla situazione di oggi ci sono state molte trasmissioni come la sua, polemiche, giornali, sindacati, eccetera eccetera. Se noi stessimo, diciamo così, a come era l'assetto iniziale, è evidente che non si era pronti a sostenere una mole di domande di questo genere, anche perché dobbiamo sempre tenere conto, e ce lo dimentichiamo spesso, quanto le imprese abbiano anticipato. Se noi togliessimo anche quella componente, chiaramente la situazione sarebbe molto molto diversa. Quindi, ma lei che conosce i meccanismi, c'è un problema di carenza, c'è stato di personale, c'è stata una sottovalutazione? Sicuramente la domanda è stata eccezionale in termini di numeri e il personale non era abituato a dei volumi del genere, quindi faccio anche fatica poi a criticare, perché uno dovrebbe dire allora dovevamo assumere del personale straordinario per poter gestire un'emergenza, essendo che tutti ci speriamo che non accada nel futuro prossimo una richiesta così elevata. Chiaro che è una situazione eccezionale. Quello che secondo me è stato problematico è che questo non si è, bisognava dirlo subito, bisognava ammettere subito, abbiamo dei problemi, non stiamo riuscendo a farlo, aspettate un attimo, ci stiamo provando. Invece ci si è difesi in tutti i modi per molto tempo, negando che ci fosse qualsiasi problema, problemi che, come dicevo, sono anche abbastanza comprensibili dal mio punto di vista, dal punto di vista organizzativo appunto. Non so se poi il fatto che ci sia stato contemporaneamente, per agganciarmi all'altro argomento, il lavoro a distanza da parte della maggior parte delle persone che dovevano gestire questi processi, non so se... No, perché molti mi stanno scrivendo che Agenzia delle Entrate e INPS non hanno i computer collegati in rete, e quindi io vorrei capire una cosa, abbiate pazienza, perché lo smart working lo facciamo anche qui, ci è stato chiesto appunto dall'azienda, però ci siamo accertati che tutti fossero, chi non lo era, l'abbiamo messo in condizione, fossero collegati in rete, cioè sennò che smart fai da casa? A lei risulta che vi sia anche un problema di accesso al sistema, diciamo, alla rete informatica, per esempio dell'INPS o dell'agenzia, per cui alcuni dipendenti stanno a casa e non fanno né smart né working? In generale nella pubblica amministrazione sì, questo è un fenomeno che è accaduto, anche perché c'è stata, diciamo, un'indicazione generalizzata per tutti di rimanere a casa e lavorare da casa, con un elemento abbastanza fondamentale, cioè il fatto che non è prevista la cassa integrazione per i lavoratori del pubblico, quindi in cui, diciamo, che la confusione tra cassa integrazione che non c'è e lavoriamo tutti da casa, ecco, potrebbe far immaginare che tante persone non hanno effettivamente lavorato, perché da un lato non ne avevano la possibilità tecnologica, perché tutto è avvenuto da un giorno all'altro, e sappiamo bene che non è che la pubblica amministrazione può, come un'azienda, acquistare dei computer e dargli ai propri dipendenti, deve fare una gara, ha delle tempistiche che non sono certo compatibili con l'emergenza, oltre al fatto che ci sono tanti lavori della pubblica amministrazione che non potevano essere svolti perché le domande su, non so, penso all'anagrafe, tante attività dell'anagrafe sono state sospese, ma quei lavoratori sono stati lasciati in smart working. Mi chiedo a far cosa. E qui vengo all'ultimo tema. Allora, io ho criticato il sindaco Sala perché il modo in cui era uscita la comunicazione sembrava una gaffe, bisogna tornare a lavorare. No, molti lavorano anche da casa, per cui, però un tema Sala l'ha posto, cioè a un certo momento, poi mi sta scrivendo un ascoltatore, guardi che lo smart working può essere una svolta green, un'opportunità. Per carità, tutto può essere un'opportunità, una svolta green, però lo deve spiegare ai tassisti, ai baristi, ai ristoranti, ai parcheggi, a tutto ciò che ruota attorno ai luoghi dove sono presenti gli uffici, che in questo momento sono deserti. Allora le chiedo, dal suo punto di vista, Seghezzi, lo smart è stata una reazione, ricordiamolo, non per un modello economico, ma per un'emergenza di carattere sanitaria e quindi epidemiologica. Nessuno ha detto, ah, sai che bello, siamo più efficienti con lo smart. Ora, quanto, non so, deve durare secondo lei lo smart working, a partire dal pubblico impiego, dove sappiamo che esistono anche situazioni in cui il working, il lavoro non lo riesci a fare perché appunto non sei collegato, non sei a sistema. E poi mi chiedo se non fosse possibile anche all'INPS richiamare fisicamente qualcuno sul luogo del lavoro. Il caso che le citava dell'anagrafe è lampante, ma quanto si deve andare avanti? Allora, io credo che lo smart working, adesso credo che da settembre molto probabilmente, debba tornare ad essere uno strumento di libera adesione da parte dei lavoratori. La problematica di oggi è questa, che nella maggior parte degli uffici oggi non c'è una libera adesione alla possibilità di fare smart working o meno, ma semplicemente tutti sono lasciati a casa, e questo ha la conseguenza che coglieva Sala, secondo me Sala l'ha detto in modo un po' non chiaro, forse poteva essere più chiaro, rispetto a tutti i servizi che girano intorno a chi lavora in un ufficio, che evidentemente sono penalizzati in questo momento. Il problema è che oggi, e faccio un esempio personale, noi, la nostra associazione, oggi non può riaprire l'ufficio, perché nei protocolli viene detto che tu devi garantire che tutti i lavori che possono essere svolti a distanza lo siano. Noi siamo un centro di ricerca, puoi immaginare che tutto possa essere svolto a distanza. Quindi, anche volendo riaprire, qui bisogna cambiare un po' in generale l'assetto, perché io capisco che per un principio di precauzione tutto il mondo, penso a Milano, il mondo consulenziale, finanziario, assicurativo, eccetera, teme a riaprire, perché dovrebbe certificare che tutti quelli che potevano lavorare da casa effettivamente lavorano da casa in impieghi e mansioni che possono, direi nel 90%, essere svolte da casa. Quindi ad oggi non accuserei il mondo delle imprese che sta facendo scelte per risparmiare sui costi degli uffici, eccetera, ma è l'intero assetto che ancora sconta il momento di crisi forte dal punto di vista epidemiologico, come diceva lei, che deve essere rinnovato. Io credo a questo punto che si andrà a settembre, ma a settembre deve essere data la possibilità a tutti, a fronte di normative di sicurezza minime, di tornare negli uffici, ma anche perché secondo me questo ha delle conseguenze al di là dei bar e dei taxi, in generale sul lavoro. No, per carità, poi c'è qualcuno che dice, beh, ma bisogna cambiare il modello di sviluppo, bisogna spiegare che anche i dinosauri si sono estinti. Sì, vabbè, adesso ragazzi, vogliamo scherzare. Cioè, noi dopo gli investimenti fatti nelle città, ripeto, grandi città, con i poli direzionali, con gli uffici pubblici, con i poli anche di carattere finanziario dei servizi, decidiamo che dal giorno alla notte smontiamo interi blocchi delle nostre città e decidiamo che lì gli uffici resteranno vuoti e tutte le attività connesse resteranno vuote. Va bene, se però poi mi dite anche dove mandiamo queste persone, io sono un po' più contento da questo punto di vista. Seghezzi, grazie, perché adesso dopo di lei dovrò occuparmi di un tema che si lega in parte, che è appunto la scuola, anche perché molti dicono, ma come faccio a gestire una vita normale in ufficio se ancora non so quando e come i miei figli rientrano a scuola? Quello è un tema. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Intanto il traffico. In questi mesi difficili, noi di InfoCert siamo rimasti sempre al vostro fianco. Firma digitale, posta elettronica certificata e SPID vi hanno permesso di gestire a distanza contratti, ordini, gare, assemblee, bilanci e molto altro ancora. Insieme abbiamo fatto davvero tanto, ma possiamo fare molto di più per voi e per il futuro del vostro business. In smart working o dall'ufficio, sempre in digitale e con la massima sicurezza. Scopri come su infocert.it/ripartidigitale. InfoCert, T-Next Group. Focus Economia. Dunque, adesso andiamo sulla borsa e poi dopo il GR24 parleremo di scuola. Molti mi stanno scrivendo, guardi che lei non capisce, questa è la salvezza, lo smart working della città dagli ingorghi, si risparmia in combustibile, in inquinamento, per carità, però ci sono due elementi. Il primo è molto pratico, mi scrivono molti ascoltatori che dicono, guardi che gli uffici all'edilizia dei comuni sono tutti bloccati perché c'erano molte cose che si potevano fare vis-à-vis o comunque non ci sono le strutture. Quindi dovremmo stabilire che le persone, e parlo del pubblico impiego in primis, che sono a casa in questo momento pagate a stipendio pieno, ricordate il tema della docenza, docenti che si sono fatti un mazzo tanto e docenti che non si sono mai visti per due mesi, tre mesi, intanto dovremmo stabilire che l'efficienza è uguale, cioè che la pubblica amministrazione quando chiede un certificato, un incontro, che sia di carattere locale, provinciale, regionale o nazionale, lavora con la stessa efficienza, quindi non c'è un rallentamento nell'attività. Stabilito questo, allora devi pensare a un vero piano, perché se stabiliamo che nei prossimi 5 anni o 2 anni a parità di efficienza abbiamo dimostrato che lavora da casa l'impiegato come lavora dal suo ufficio, dobbiamo ripensare tutta l'urbanistica e anche le licenze, quindi un tema enorme per i comuni ma non solo, delle nostre città, cioè l'organizzazione delle grandi città. Parlo delle grandi città perché è lì che tu hai i centri, diciamo, direzionali degli uffici più che nei piccoli centri urbani, e iniziare a dire guardate che a questo punto i bar, i ristoranti, perché cioè tutte le attività connesse salteranno per aria, perché l'intenzione è quella di andare verso un mondo in cui si lavora da casa e non più in ufficio. Benissimo, è più sostenibile economicamente, scusate, ambientalmente, economicamente, non lo so, prima però dimostriamo che è lo stesso. Io non penso, conoscendo il pubblico impiego, che i pubblici impiegati a casa riescano neanche lontanamente a fare lo stesso lavoro che facevano collegati nella struttura telematica dall'ufficio. Quindi e qualcuno dice vieni a Genova, prova a spostarti a Genova, ho capito, vabbè. Allora, ma ripeto, non è essere contrario a un nuovo modello, ma i nuovi modelli non si possono imporre in 3 mesi lockdown con esercenti che hanno tirato giù la e non sanno se potranno riaprirla. Si studiano, si fanno i piani urbanistici. Vabbè, più 0,70% Francoforte, più 1% Parigi, più 0,40% Milano, ha ridotto un po' il rialzo Milano, Banco BPM più 2,20%, UbiBank più 2, come Nexi, l'1,80% lo guadagna Exor, l'1,60% Azimut e Diasorin, l'1,5% Fiat Chrysler e anche Telecom Italia. Fronte opposto Campari meno 3,20, Era meno 1,90, Italgas meno 1,30 come Case New Holland. Andiamo sul GR24 e poi scuola e invece i prestiti alle imprese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Federica Pellegrini che è sempre davanti, sta per realizzare l'ennesimo sogno, 1,54,22, continua la leggenda dell'Araba Fenice. Io non ci credo ancora perché in acqua proprio ho fatto quello che ho voluto e sono contenta tanto. Prima feroce come uno squalo, poi candida come un delfino, capito perché la chiamano la divina? Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni domenica alle 16.30 con Olimpia all'interno di Passione Domenica. Vi racconterò i grandi duelli della storia dello sport qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, molti messaggi che sono arrivati sul tema dello smart working che non risolviamo certo oggi. Mi hanno scritto alcuni impiegati pubblici, anche di comuni, oltre che delle agenzie delle entrate, dicendo che loro hanno lavorato anche di più da casa, che hanno dovuto mettere a disposizione i loro computer. E per carità, ufficio contabilità, ma anche, ripeto, anche l'agenzia delle entrate, mi ha scritto qualcuno. Ma guardate, per chiudere per ora il tema, il punto non è non cogliere, qualcuno ha detto lei come un uomo di Neanderthal, ragione in maniera vecchia, non è non cogliere anche le opportunità che si sono aperte, ma un conto è ragionare di smart working con tempi normali, personalmente qui lo facevamo per esempio, un conto è immaginare che adesso improvvisamente nell'arco di 3 mesi rivoluzioniamo tutto il sistema economico delle città, soprattutto delle grandi città. Ecco, la gradualità è tutto in questi casi, il tempo è tutto. Non sto dicendo che tu debba continuare in maniera imperterrita solo in questo modo, ma neanche immaginare che adesso blocchiamo interi centri urbani perché abbiamo scoperto lo smart working. E poi ripeto, c'è il tema anche della produttività da casa. Comunque andiamo sul tema invece che riguarda, che si collega, come dicevo, perché molte famiglie segnalano: ma se non sappiamo ancora come torneranno i nostri figli a scuola, come volete che sappiamo come lavorare, come potremmo tornare al lavoro fisicamente? Allora parliamo di scuola. Oggi è sabato, domani non si va a scuola. Oggi è sabato, è forse il giorno speciale. Oggi è sabato, meno male. Allora, mancano 81 giorni all'inizio della scuola, continua il nostro conto alla rovescia. Inizio della scuola, quello previsto, il 14 settembre. Intanto è stata rinviata domani la conferenza Stato-Regioni, e perché questa mattina il Ministero dell'Istruzione ha consegnato a Regioni e enti locali il testo sulle linee guida per settembre. C'è stato un sit-in in 60 piazze in cui si è chiesta la riapertura delle scuole per tutti, da Firenze a Ragusa, da Roma a Varese, da Palermo a Modena. Alessio Maurizi, durante effetto giorno, ha raggiunto Gloria Ghetti, una delle portavoce del Comitato Priorità alla Scuola, e insegna in un liceo di Faenza. Ritardo del governo, noi non siamo stati in ritardo, noi siamo stati, diciamo, tempestivi, perché fin dal 18 aprile, quando abbiamo scritto la prima lettera a Zazzolina, abbiamo coniugato 3 anime che insomma sono della scuola: l'anima degli insegnanti, io sono insegnante, l'anima dei genitori, gli altri diciamo del comitato promotori sono genitori, e poi anche gli studenti. Quindi sì, nasce proprio nel pieno del lockdown, quando ci siamo accorti che nessuno parlava di scuola. Quando si parlava della riapertura si parlava soltanto delle attività produttive, dimenticando che la scuola è un'attività produttiva che produce un bene inestimabile, perché produce cittadini, e quello nessun altro può farlo. Un po' di risorse bisogna che continuiamo a chiederle, perché non è ammissibile che ne vengano concesse la metà di quante sono concesse dall'Italia, e in primis quelle risorse andrebbero spese per nuovi docenti, per fare più classi con meno studenti e più insegnanti. Gli uffici scolastici regionali hanno fatto le classi con i criteri pre-Covid, per cui ci saranno ancora, se tutto resta com'è, classi con 30 studenti. Questo è inammissibile. La cosa che ci preoccupa ancora di più è che si continua a contrapporre il diritto all'istruzione col diritto alla salute, no? Questa cosa che per istruirci, perché l'istruzione non è un servizio, è un diritto, dobbiamo stare a casa, no? Le scuole possono tornare ad essere dei presidi sanitari, le vecchie infermerie, proprio per fare cultura della prevenzione contro questo virus, contro i prossimi, perché non si può delegare a un bidello, a un dirigente o a un insegnante la responsabilità di dire: tu stai a casa. Allora, Eugenio Bruno, buonasera di nuovo. Buonasera. Speravo che fosse uno degli appuntamenti conclusivi, ma mi sa che ci risentiamo domani, visto che tutto è prorogato domani. Mi ha impressionato, al di là del slittamento domani dell'incontro Stato-Regione, conferenza Stato-Regioni, la dichiarazione di Bonaccini, che è presidente dell'Emilia-Romagna, ma anche della conferenza delle regioni, che ha detto: le linee guida sulla scuola, quelle che ci hanno presentato, non erano ricevibili. Eugenio. Sì, le linee guida di cui parla sono quelle che abbiamo raccontato in questi giorni. Sì. Quelle che davano di fatto ai presidi la scelta definitiva, il compito di gestire la patata bollente. Nel frattempo sono arrivate in maniera ufficiale, quelle erano ufficiose, e non è che ci si discosti molto, sono stati accolti alcuni rilievi delle regioni, ma anche dei sindaci, però l'impianto resta quello lì che abbiamo raccontato, con una novità forse: la didattica a distanza, che potrà esserci solo alle superiori, ma come estrema ratio. Ma che cos'è? Qualcuno mi dice: guardi che lei si dimentica che la scuola è chiusa. Ma noi non stiamo criticando il ministro perché la scuola è chiusa, era chiusa sarebbe stata chiusa comunque. Ci interessa capire come riaprirà, lo dico all'ascoltatore. Dicevi di didattica a distanza, ma cos'è la cosa che ha lasciato più perplessa, come tu l'hai capita, più seccate le regioni, tant'è che hanno appunto rinviato tutto domani? Un problema di risorse economiche o c'è dell'altro? Allora, credo che i nodi siano due e sono nodi che però difficilmente le linee guida possono risolvere. Il primo sono le risorse, perché chiedono i governatori in primis, ma non solo, risorse aggiuntive, quindi stanziamenti aggiuntivi, e collegato a questo tema è quello del personale. Le linee guida citano la possibilità di aumentare i docenti, cioè le scuole che ne avranno necessità chiederanno docenti in più. In realtà le regioni avrebbero voluto degli aumenti di organici più strutturati, ma anche questo è collegato alle risorse e non si può decidere con linee guida, no? Quindi servirebbe una norma di legge, un emendamento al decreto rilancio per riassumere. E questo per quello che riguarda appunto il tema risorse. L'ultima cosa che vorrei chiederti, se ho ben capito, c'è un timore espresso anche dai presidi, non solo, sul tempo. Allora, è immaginabile un intervento, diciamo, di carattere strutturale, appunto lavori di edilizia nelle scuole da inizio luglio in poi? Cioè, non è che qui alcune delle cose saranno irrealizzabili più che irricevibili, perché manca il tempo tecnico poi per portare una ditta, fare l'appalto e la gara e quant'altro per mettere mano alla scuola? Non so se irrealizzabile, ma difficilmente realizzabile sì. Non lo dico io, lo dicono i tempi a cui l'edilizia scolastica ci ha abituato in questi ultimi anni. È vero che l'ultimo stanziamento, che è di questi giorni, riguarda le opere leggere. Quindi forse queste si riuscirà a farle. Ma non le opere di carattere infrastrutturale. Per concludere, Eugenio, tu ti attendi che domani si arrivi a una quadra, insomma, a un accordo, oppure no? Io mi aspetto di sì. Il film è simile a quello che abbiamo già visto, sempre in materia di scuola. C'è stato l'intervento anche di Conte. Le regioni forse oggi non se la sono sentita di firmare mentre c'erano comunque delle manifestazioni di piazza, e quindi diciamo si aspetta 24 ore per appianare. Però tu pensi che a questo punto domani l'accordo dovrebbe arrivare e noi ti riavremo per questo motivo. Nel frattempo, nel ringraziare Eugenio Bruno e prima di passare al traffico, anticipo che dopo un altro tema che stiamo seguendo e su cui oggi ci sono nuovi dati in aggiornamento, e così usciamo dal tema scuola e smart working, è invece quello degli aiuti alle imprese, i 25.000 euro portati a 30.000 e la scadenza che può essere portata da 6 anni a 10 anni. C'è un piccolo problema che si è creato se tu, come hai deciso di cambiare o aumentare quindi la tua richiesta, sia come durata che come stanziamento complessivo. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Dunque, rifacciamo, come dicevamo, il punto sull'andamento delle richieste al fondo di garanzia, perché lo monitoriamo direi quasi settimanalmente. Allora, ieri, al 24 giugno, le domande arrivate dalle banche al fondo di garanzia, quindi di richieste già processate dalle banche che poi le vengono girate al fondo di garanzia, sono state 708.000. La stragrande maggioranza sono quelle fino a 30.000, erano fino a 25.000, poi la conversione in legge del decreto la porta a 30.000 euro, cresciuti a 630.000 per 12 miliardi e 600 milioni. Complessivamente invece tutte le domande valgono 40 miliardi, perché sappiamo che poi c'è la fascia più alta, quella in cui interviene il fondo di garanzia e la garanzia dello Stato, scusatemi, fino al 90%, e poi la fascia anche più alta. Comunque 630.000 per 12 miliardi e 600 milioni sono quelle relative ai 30.000 euro. E ieri il ministro Gualtieri ha detto: nel prossimo DL andremo a rafforzare il fondo di garanzia perché le richieste crescono in maniera molto consistente, e vorrei parlarne con chi rappresenta il primo mediatore creditizio per le imprese italiane quanto fatturato, quindi il gruppo NSA, e William Zuin, che è responsabile dei processi del gruppo. Buonasera. Buonasera dottor Barisoni e buonasera anche agli ascoltatori. Dunque, voi appunto monitorate anche l'andamento facendo da mediatore. Allora, sappiamo che nella conversione in legge del decreto si è passati da 25.000 euro massimo, come inteso come il 25% del fatturato massimo, per 6 anni a 30.000 euro, quindi come anche in questo caso come fatturato massimo, come quota massima da chiedere per 10 anni. Ora, mi dice se questo ha creato dei problemi, cioè noi sappiamo che per esempio chi aveva già fatto la pratica e ottenuto via libera per i 25.000 euro, se volesse chiederne 30.000, cioè 5.000 in più, e per una scadenza più lunga deve rimpostare tutta la pratica? Questo è vero se la pratica non è ancora stata, o meglio, è già stata erogata, perché nel caso si trovasse ancora in una fase intermedia sarebbe sufficiente consegnare l'annex, che è poi quell'integrazione al modello 4 bis, e quindi rientrerebbe in corsa con un dispendio di tempo inferiore rispetto a chi invece ha già ottenuto l'erogazione. Però, come ha detto lei, abbiamo superato ormai i 630.000 richieste. Di queste circa il 90% sono quelle interessate dal finanziamento che potrebbe essere oggetto di il 90% sono appunto quelle di nell'ambito di tutto il complesso delle pratiche. Sì, diciamo su 700.000 630 sono per i 30.000 euro. Perfetto. Di questi 630.000 abbiamo calcolate che circa un 60% potrebbero avere diritto all'aumento dell'importo, mentre tutti potrebbero avere diritto all'aumento della durata. Quindi il tema che ci ha toccato un pochino però è stato proprio quello della conversione in legge, come ha accennato lei prima, ed è per questo che abbiamo fatto una piccola indagine nelle filiali delle banche nostre clienti, ma anche in quelle che non lo sono ancora, quindi banche che sono estranee dalla collaborazione con NSA, per capire un po' quali potevano essere stati i problemi che ha trovato l'imprenditore, ma che ha trovato anche la banca nel gestire questa situazione. Quelle dell'imprenditore, se vuole, li affrontiamo per primi. Dobbiamo fare una premessa. Il modello 4 bis, l'allegato 4 bis non è un modello difficile da compilare, però rientriamo anche in un ambito di imprenditori che probabilmente sono più avvezzi a stare dietro a una macchina o su un furgoncino con le mani, diciamo, sul lavoro piuttosto che dietro una scrivania, e quindi anche questo tipo di attività può creare dei problemi. Quali sono gli errori più gli errori più comuni che si commettono quando si va a fare la richiesta? Ecco, questi sono di carattere formale ma anche sostanziale a volte. Come dicevo, non sono cose difficili né da reperire né da scrivere sostanzialmente, però abbiamo trovato innanzitutto gli errori formali che poi creano quel problema che i tecnici chiamano di rimbalzo, per cui la pratica viene presentata in maniera errata, alcune banche la trattano direttamente, altre invece si affidano a dei servizi esterni, come può essere anche NSA, mandano queste domande e vengono rispedite indietro. C'è da essere fortunati se tutti gli errori vengono visti in una volta sola e non la pratica viene rimandata indietro ogni ma volta. Ma gli errori formali, per capirci, per fare degli esempi concreti, quali possono essere più comuni? Ad esempio i dati di bilancio e quindi il fatturato e il totale di bilancio, inteso come attivo patrimoniale, che vengono riportati banalmente all'euro anziché al migliaio di euro. Ho capito. È questo. Che, certo. Senta, da questo punto di vista invece la modifica, quanto lei faceva riferimento prima, la modifica, cioè aver portato, a mio avviso, correttamente a 30.000 euro e a 10 anni, a noi risulta che è vero che molti possono farvi ricorso, cioè quindi aumentare la durata e l'importo complessivo, però che questo abbia creato un po' di incertezza, di caos anche a livello bancario, no? Ha ragione, nel senso che per quello che che abbiamo potuto verificare, nel migliore delle ipotesi le banche hanno ricevuto la normativa in questi giorni, quindi sono passati quasi 2 settimane dalla conversione in legge, e quindi possiamo ritenere che ci sia stato un periodo di buio in queste 2 settimane per questo tipo di per le modifiche, quindi per l'applicazione delle modifiche che ha portato la conversione in legge. Altre banche non hanno ancora ricevuto questi aggiornamenti, ma le spiego, c'è una motivazione logica in questo, perché il cambiare in corsa una normativa su una legge così articolata è come far virare una nave da crociera. La predisposizione di una nuova normativa all'interno della banca, più grossa la banca, più diventa problematica e impegnativa a livello di tempi. Tenga conto che al di là dell'ufficio specifico e specialistico che deve poi operare su questa legge, ci sono tutti i benestare che riguardano l'ufficio legale, la compliance, che riguardano l'auditing, il contratto operativo. Ecco, senta, una cosa però le volevo capire, anzi due. Intanto ricordiamo un attimo brevemente il tasso applicato, cioè è non superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici con durata analoga al finanziamento, quindi un BTP a 10 anni, poniamo, maggiorato dello 0,2%? Esattamente. Ecco, su questo però, dal vostro punto di vista, è più, diciamo così, appetibile, perché se io avessi ottenuto i 25.000 euro, di rimettermi a fare tutta una pratica per portarla a 30.000, potrei anche dire, vabbè, magari vediamo se gioco vale la candela, ma è più appetibile l'aumento dell'importo fino a 30.000 o l'aumento della scadenza? Perché inizialmente non si pagavano, non si rimborsava nulla, se non si pagavano solo gli interessi, quindi c'era un preammortamento di 24 mesi. Adesso ho capito che resta il preammortamento, ma la scadenza va a 10 anni. Ecco, tra l'ammontare dei 5.000 in più oppure i 4 anni in più, qual è più conveniente, uno volesse rifare l'intera pratica? Suggerirei io, nel caso in cui l'imprenditore avesse bisogno di fare entrambe le cose. È chiaro che, avendo la possibilità di portare a 10 anni il finanziamento, è tutto relativo chiaramente all'azienda che stiamo valutando, sostanzialmente quasi di mezza la rata. Tengo conto che, pur con l'incremento di tasso che avrebbe nel passare da un ammortamento di 72 mesi a quello di 120 mesi, passerebbe da una rata ipotetica di 535 euro al mese a una di 280, mantenendo i 25.000 euro. Aumenterebbe leggermente se prendesse anche l'aumento, certo, di 5.000. Per cui, se il problema è il peso della rata, significherebbe rimborsare, anziché 6.500 euro all'anno, 3.300 euro quindi all'anno. Quindi, diciamo, tra i due, è chiaro che poi uno, che se deve rifare la pratica, può chiedere tutti e due, ma tra i due lei dice, attenzione, che è molto più stimolante e vantaggioso anche l'allungamento della scadenza. Speriamo che, come diceva lei, passate le 2 settimane, adesso il meccanismo anche nel cambiare da 25 a 30 mila euro, nell'allungare la scadenza, sia più oliato. Noi continueremo a fare un monitoraggio, diciamo, ciclico dell'andamento delle domande del fondo di garanzia. Grazie intanto a William Zwin, responsabile appunto dell'organizzazione processi del gruppo NSA, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.